Sei capace tu a cambiare la gomma? Ma figurati cosa sono capace, guarda. L'importante è incontrare qualcuno che sappia farlo. Guarda. Voi non avete problemi. C'è un ascoltatore che dice: che bella via che avete trovato per risparmiare, Deborah e Nicoletta. Fare la spesa con la carta di credito altrui. Che cosa c'è di più bello? Adesso dovete farci questa gentilezza con silenzio, consegnare le cuffie ad Antonio Caielli e Mirko Labella, che adesso altrettanto silenziosamente si avvicineranno. Invece alle... che changer la femme, changer la cuffia. La cuffia. Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre. Oggi la prima parte del programma è dedicata proprio a noi donne, ma soprattutto alla prevenzione. La prevenzione, lo sappiamo bene, ci salva la vita, non è solo un modo di dire. La cultura della prevenzione deve essere continuamente sostenuta in modo da anticipare il più possibile la scoperta di un'eventuale neoplasia, che ricordiamo non fa distinzione di età. Immagino che molte di voi, sentendo il tema di oggi, abbiano pensato: Debra, vabbè, no, giro canale, perché no, perché meglio è troppo un po' schermare, meglio non pensarci e schermarsi. Però io non posso trattenermi, ma provate a fermarvi, perché credo sia una buona occasione per capire che, se è vero che il tumore può cambiare la vita, è importante anche prendere consapevolezza che noi possiamo guardarlo in faccia, affrontarlo e soprattutto sconfiggerlo. 800 24 00 24 per chiedere un consiglio, lanciare un messaggio di prevenzione, cercare una spiegazione, segnalare un'iniziativa e soprattutto per fare tante domande ai nostri ospiti. Per quello che riguarda invece la parte di denari, oggi è giovedì, ormai avranno preso nota, visto che oggi li stiamo invitando a farlo i nostri ascoltatori, del fatto che ogni giovedì c'è ormai un appuntamento che sta prendendo sempre più forma, quello con Investire Informati. Allora, nella seconda parte della trasmissione porterò Nicoletta di nuovo te a scuola di risparmio, ma per dirla tutta oggi facciamo una cosa un po' più divertente: ti porto un po' in giro per il mondo, perché le notizie di questi giorni, lo sai, ci stanno portando in Russia, in Grecia. Ieri sera negli Stati Uniti pure è successo qualcosa di interessante, ma senza mai dimenticare gli affari di casa nostra. Terzo appuntamento dunque di Investire Informati, come sempre dalle 11.45. Come difendere i nostri risparmi dalla volatilità dei mercati internazionali sarà il tema principale di oggi, naturalmente accompagnato come sempre dalle vostre domande all'800 24 00 24. Il nostro suona, componete l'800 24 00 24, parliamo di prevenzione al femminile in uno studio tutto al femminile. Sì. Infatti ci ha raggiunto la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico, comunicatore scientifico e scrittore. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Però oggi, Deborah, abbiamo voluto fare di più. Abbiamo strafatto. Abbiamo strafatto. Abbiamo anche voluto invitare un uomo, un certo, uomo molto particolare, un uomo che è un medico che conosce e capisce molto bene le donne. In linea con noi abbiamo Alberto Luini, senologo dell'Istituto Europeo di Oncologia. Buongiorno. Buongiorno a voi. E aggiungo, professore, un uomo che ha dedicato la sua vita a salvare il cuore e la testa delle donne. Beh, grazie, troppo gentile, grazie di questa considerazione che mi fa molto piacere. Allora, prima di iniziare a così aprire i nostri microfoni, io vorrei fare un applauso virtuale, sì, da parte di Radio 24, in modo particolare di Cuore Denari, perché il professor Luini, da direttore della divisione di senologia, è diventato co-direttore di tutto il programma Senologia dell'OIEO, e ce l'abbiamo noi. Perché l'applauso virtuale? Ce l'abbiamo, quello vero. Ottimo. Congratulazioni. Congratulazioni, e soprattutto siamo contenti che venga a festeggiare qua da noi, a Cuore Denari. Allora, professore, dalla sua esperienza con le sue pazienti è nato, se non lo sai, un ebook che, se voi non lo sapete, sta veramente arrivando ai vertici delle classifiche. Un ebook che costa 90 centesimi e, dottoressa Luini, che lei ne ha, io ho fatto la prefazione, è un per cui mi sento comune, un po' una zia, ma dottoressa Luini, come stiamo andando? Andiamo benissimo, in testa a tutte le classifiche nei negozi virtuali, ma ciò che importa è che le donne lo trovano utile, questo importa di più. Costa 99 centesimi, in effetti è un dono, che può essere anche un dono natalizio, perché la salute è un dono di Natale anche. Se non lo sai, professor Luini, un ebook che parte dalle domande delle donne, le domande sono le più varie, anche se contiene soprattutto quelle domande che le donne spesso non hanno il coraggio di fare o che spesso si dimenticano di fare, presi dall'emozione. Quando si entra in un ambulatorio e si è a tu per tu con il medico, si chiedono tante cose, si parla di tante cose, si deve vincere in alcune situazioni anche la paura e del domani. Si esce e si pensa, ecco, avrei potuto chiederlo. Professor Luini, è così? Sì, è così, è esattamente questo, perché certamente quando una paziente arriva dopo aver effettuato degli esami diagnostici e radiologici, può trovarsi di fronte a situazioni di vario tipo, da una patologia benigna che richiede un semplice controllo a delle situazioni magari più articolate che richiedono invece qualche approfondimento in più o delle ulteriori indagini strumentali oppure in casi più complessi di fronte ad una diagnosi di carcinoma. Quindi primo contatto con il medico, con il senologo, è sempre un momento molto, chiamiamolo, drammatico, perché da una parte c'è una persona che in quel momento ha tutte le sue ansie, le sue paure, quindi che sono assolutamente legittime. Sì, che sono assolutamente legittime, certo. Allora, ci scrive Tommaso da Vicenza, oltre a complimentarsi per la trasmissione, e noi ne siamo lieti. Sempre molto ben felici. Parlate del binomio cancro-alimentazione. La prevenzione comincia anche e soprattutto a tavola, e se non lo sai, infatti, la parte relativa all'alimentazione come fattore di protezione e di prevenzione è stata affidata a Lucilla Titta, che ci raggiungerà nel corso della trasmissione. Professor Luini, prendo un attimo in prestito il titolo dell'ebook, se non lo sai, per ricordare che lei è l'inventore di una tecnica, la tecnica ROLL, che adesso è utilizzata in tutti i centri del mondo. Ci racconta di che cosa si tratta? Nasce dall'esigenza di individuare in modo preciso una lesione non palpabile che deve essere sottoposta ad un'asportazione chirurgica. Questo è, la conseguenza di esami strumentali, sia mammografia che ecografia, che oggi fortunatamente consentono di evidenziare delle formazioni così piccole che ancora non sono clinicamente individuabili. Tutti sappiamo, abbiamo sentito parlare delle microcalcificazioni, che sono qualche volta espressione di una patologia tumorale in una fase molto iniziale, altre volte invece sono delle piccole nodularità. Allora, la ROLL consiste nell'iniettare un tracciante debolmente radioattivo all'interno di questa lesione e poi con una sonda che oggi viene utilizzata nella chirurgia senologica, per esempio per identificare il linfonodo sentinella, consente di identificare con molta precisione questa lesione. Quindi è un intervento molto mirato, siamo sicuri di andare a prendere proprio quel nodulo, proprio quelle microcalcificazioni, ma anche di evitare un'asportazione eccessiva. Questa metodica, è stato il frutto di una collaborazione che è nata qui all'interno dell'Istituto Europeo di Oncologia nella metà degli anni 90 con Giovanni Paganelli, che lui lavora a Forlì, era il direttore della medicina nucleare. e questo è un esempio un po' di quello che è il concetto della multidisciplinarietà che oggi diciamo regola la diagnostica e la terapia delle forme tumorali. In realtà diciamo, lei ha citato prima il programma di senologia. Il programma di senologia nasce proprio per diciamo coagulare, unire tutte queste competenze nell'ottica di andare in una direzione comune che è quella di una migliore diagnosi, di un miglior trattamento e anche di una miglior prevenzione. E sono obiettivi che si sono raggiunti, professore? Sono obiettivi che si sono raggiunti, ma che hanno bisogno di continui sviluppi, cioè in medicina la ricerca non si ferma mai, cioè ogni ricerca genera altre ricerche e anche nell'ambito dell'organizzazione è così, cioè ogni forma organizzativa ne fa nascere altre. L'esigenza di avere in Italia dei centri di eccellenza è oggi possibile proprio perché c'è una forte collaborazione di varie competenze. Ci sono ovviamente delle situazioni come la nostra dove magari è più facile, però è necessario che questa si sviluppi a tutti i livelli, un po' su tutto il territorio nazionale, perché la cura del tumore del seno, ma anche delle neoplasie in generale, è tanto più efficace quanto maggiore sono il convergere delle competenze. 800 24 00 24, vogliamo parlare di prevenzione, vogliamo anche avere dai nostri esperti gli ultimi aggiornamenti della ricerca, che cosa si sta facendo, quali sono gli obiettivi futuri, tantissime domande e insieme a Deborah abbiamo pensato di coinvolgervi. L'invito come sempre è quello di fare rete, di chiamare il nostro numero verde, ma oggi vi chiediamo anche qualcosa di più, quello di considerarci un po', come lo fate, molti di voi ce lo scrivono, delle vostre amiche. E come è successo per l'ebook del professor Luini, fateci la vostra domanda. Noi abbiamo 10 book da donare a chi proporrà domande per l'eventuale futura edizione di Se non lo sai, perché è stata proprio raccolta. In fondo, dottoressa, e sono anche le donne ad averlo fatto, soprattutto le donne. Perché... Sì, proprio loro. Abbiamo raccolto le domande delle donne in ambulatorio e anche nei social network. Allora, domande delle donne anche all'800 24 00 24. Se le domande sono già comprese nell'ebook, il dono varrà lo stesso, evidentemente avranno beneficio dalla lettura. 800 24 00 24 ed è il numero che ha composto la nostra Silvia, prima ascoltatrice. Silvia dalla Spezia, che forse più che una domanda ha una testimonianza, vediamo se può mettere insieme entrambe le cose. Silvia, benvenuta, Cuore Denari. Buona giornata a voi. Buongiorno. Scontato, complimenti, bravissime come sempre in tutte le trasmissioni e per tutto. Grazie. Io volevo soltanto dire, è un tema molto forte oggi come oggi, perché più si va avanti con gli anni e più si ha possibilità di conoscere malattie, curarle, varie possibilità. Io che sono sempre stata una persona che si è sempre controllata almeno una volta all'anno, purtroppo mi è stato riscontrato un carcinoma maligno abbastanza grosso, con anche il tonodio, quindi con tutta una problematica in sé. Sicuramente posso dire una cosa, dentro di sé si percepisce che c'è qualcosa che non va, è una sensazione di non stare bene, di avere qualcosa, di non capire. E la mia fortuna è stata che comunque, facendo sempre gli esami, ho avuto una dottoressa spettacolare che ha saputo mettermi a mio agio e darmi la conferma di quella che era la mia sensazione. La stessa cosa il radiologo, quando mi ha effettuato nuovamente l'esame e la biopsia che mi ha dovuto fare. In quel momento io sapevo che mi stava dando una risposta a quella che era una mia domanda, quasi una certezza. Posso dire di aver avuto le montagne russe nel cervello, perché ti passa tutta la vita nel momento che ti danno una notizia del genere. È vero, immagino. Perché le montagne russe proprio, penso che sia il termine migliore per poter capire che cosa significa il cervello, che cosa sta facendo. Però devo dire anche che io sono stata fortunata, nel senso che ho potuto effettuare tutta la chemioterapia prima, di un intervento con discavo ascellare, proseguire la chemioterapia successivamente. E sicuramente non è stata una passeggiata, però di poter dire io personalmente non posso non provarci a vincere questa guerra. Cioè, il carattere deve assolutamente avere la supremazia su tutto, la forza, la volontà. Non ce la faccio a fare uno scalino oggi, ci proverò domani a rifarlo. E poi piano piano vedere in modo e maniera di farlo. Quantomeno non aver nessun tipo di rimpianto e di rimorso per non averci provato. Silvia, io vorrei ritagliare questa testimonianza di Silvia, metterla sulla nostra pagina e ogni tanto andare ad ascoltarla, perché Silvia ha regalato a tutti noi una testimonianza che ci tocca in modo molto profondo, perché c'è questo coraggio che il professor Luini sa bene, perché aiuta le donne a guardare in faccia il tumore che, come racconta Silvia, no? Ti provoca dentro un turbamento simile proprio a queste montagne russe, ma bisogna anche, il medico può farlo, Silvia l'ha raccontato bene, il medico deve dare anche alle sue pazienti la forza di affrontarlo e di andare avanti. Ma senza dubbio, devo dire che la testimonianza della signora è emblematica da questo punto di vista. Mi ha colpito quando la signora ha detto che lei sentiva questa presenza. Questo è un elemento che è molto ricorrente. Devo dire che io in 40 anni che faccio il senologo è una delle cose che credo di aver imparato. Quando una donna insiste nel sottolineare delle sensazioni o un'eventuale presenza che magari gli esami hanno difficoltà a vedere, il medico deve sempre dare retta a ciò che dice, perché diciamo non dico 10 volte ma 9 volte la donna ha ragione, quindi questo è un aspetto importante. C'è un po' una verità del corpo che noi sentiamo. E l'altro è che certamente la positività con cui si affrontano soprattutto le terapie, e mi riferisco in modo particolare alla chemioterapia che viene fatta ancora quando la malattia è presente, perché verrà tolta poi in un momento successivo, è di grande aiuto proprio anche in tutto il processo, diciamo, di cura, e che diciamo con l'obiettivo di arrivare, diciamo, ad una guarigione. Certo. Silvia, anche Deborah ha sottolineato un aspetto molto importante, vorrei coinvolgere la dottoressa Luini. Mi controllavo tutti gli anni. E Silvia ha detto, e per fortuna, perché ho scoperto la neoplasia in tempi utili. Sì. Spesso invece quando le donne che si sottopongono a dei controlli ricevono una diagnosi di neoplasia, dicono: ma com'è possibile? Avevo fatto tutti i controlli. C'è un po' di confusione sulla prevenzione, sul concetto di prevenzione. La mammografia e l'ecografia mammaria non ci mettono al riparo del tumore, no? No. Permettono di intervenire e diagnosticarlo precocemente. Questo può fare la differenza. Dottoressa Luini, prima dei mercati, è vero, messaggio alle nostre ascoltatrici. Lo dice anche nell'ebook Luini. In effetti la prevenzione con mammografia e ecografia è efficacissima, ma si chiama secondaria, cioè non impedisce il formarsi del tumore, ma lo scopre in modo tale da portare la donna a tutte le cure in tempo utile, tempestive. Questo è importante. Capire questo significa non rimanere delusi dalla prevenzione se scopre qualcosa. Tra l'altro il professor Luini so che deve salutarci, ma io voglio sottolineare che in questi book il professor Luini non si è limitato a rispondere alle domande che riguardano la prevenzione, che sono quelle più frequenti: ogni quanto mi devo far controllare, il discorso della familiarità eccetera, ma è andato oltre, ha trattato anche il periodo della diagnosi e il post intervento, quindi devo dire che ha accompagnato proprio rispondendo anche a delle domande che magari sembrano banali. Posso andare alle terme? Ecco. Sì. Oppure che reggiseno devo indossare? Domande che solitamente una donna ha quasi timore di fare ad un uomo. Però siccome ha tutto il diritto di tornare ad una quotidianità, ad una normalità, è giusto che sappia. Quindi grazie al professor Alberto Luini per questo regalo che ha fatto alle donne, se non lo sai, che ha scritto insieme alle donne e a cui noi speriamo di aggiungere anche le domande delle ascoltatrici di Radio 24 che potranno ricevere a casa un ebook. Professore, grazie, complimenti e tanti auguri. Grazie a voi, grazie di questa piacevole chiacchierata. Cuore e denari. A идти по предоставлению кредитных ресурсов. Собственно говоря, они тоже это и делают. Один из известных инструментов вот это так называемое репо. Possibile naturalmente da tradurre al volo, ma questa è la voce di Vladimir Putin. Vuoi fare tu? No, chiedi a me. Vuoi avventurarti sul terreno russo stamattina? Perché no? Peraltro poco fa la nostra ascoltatrice ha parlato di montagne russe, naturalmente associando questo concetto ad una vicenda personale della sua vita, ma in questi giorni a tutti gli effetti abbiamo visto le montagne anche a causa della Russia sui mercati. Ne parleremo dalle 11.45 perché dopo l'attenzione tutta concentrata sulla Grecia negli ultimi giorni, in modo dirompente invece l'abbiamo girata sulla Russia, il nostro viaggio con Investire Informati ci obbliga a stare sull'attualità, lo facciamo ben volentieri, sulla cronaca finanziaria internazionale perché davvero in questi giorni sui mercati è successo di tutto, occorre una bussola per orientarsi in questo scenario a dir poco complicato, lo faremo tra poco, intanto spazio anche su questo tema, i vostri dubbi, esprimeteceli all'800 24 00 24. Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico. Anche noi abbiamo scelto una donna per amico, stiamo facendo rete 800 24 00 24 per tutte le vostre domande sulla prevenzione del tumore al seno. Qui in studio con noi la dottoressa Maria Giovanna Luini e ci sta raggiungendo anche la dottoressa Lucilla Titta, ricercatore e nutrizionista del progetto Smart Food, che è un progetto sulla ricerca e la divulgazione dell'alimentazione salutare che ha svolto la parte relativa alla alimentazione di questo ebook di cui vi vogliamo parlare oggi. Si chiama Se non lo sai, Emma Book editore, e sta raggiungendo, no? Sta arrivando ai vertici delle classifiche Amazon, IBS, sta scalando veramente. Raccoglie tutte le domande che noi donne facciamo e che a volte abbiamo paura di fare riguardo alla prevenzione, alla diagnosi e anche al posto trattamento del tumore al seno. Potete riceverne, abbiamo 10 ebook a vostra disposizione. Che cosa dovete fare? Dovete chiamare all'800 24 00 24, fare la vostra domanda. Questo è un modo non solo per farvi ricevere a casa l'ebook, ma il farsi delle domande vuol dire in qualche modo anche vincere una paura, dottoressa Luini. Noi tante volte quando non vogliamo occuparci di una cosa, lo mettiamo lì. Invece proviamoci a pensare anche se siamo giovani, anche se non abbiamo casa in famiglia, anche se non abbiamo un'amica. E dico tutti questi se, ma il tumore al seno è sempre più vicino a noi perché i numeri ci dicono che insomma purtroppo abbiamo, sì. Tutti noi conosciamo, se non per esperienza diretta, una nostra amica, collega che ha avuto a che fare con questo nemico, sì. Che però si può sconfiggere. Certo, sì. Che ci vuole il coraggio di Silvia, sì. Oltre che dei centri di eccellenza alla Cuore Denari, come certo. Anticipava il professor Luini, che mettono a disposizione le cure che costano, perché sì. La ricerca, le cure, la tecnologia sono costosi, ma anche l'empatia, l'ascolto che fanno anche il grande medico. Dottoressa Luini. In effetti verbalizzare una domanda, cioè tirarla fuori, significa guardarla e porsi il problema della propria salute. In fondo possiamo anche non parlare di tumore, ma parlare di salute. La nostra salute è anche questione di domande da porre. Quindi un ebook come Se non lo sai, tutti i manuali che ci spiegano come mantenere la salute e recuperarla sono un aiuto. Quanto a Cuore Denari, prima abbiamo sentito Alberto Luini che diceva che i centri di eccellenza si basano sull'organizzazione della salute e delle risorse, e mi sembra che siano veramente un esempio perfetto detto di Cuore e Denari, che è di fatto questa trasmissione che anch'io ritengo di riferimento, e non a caso la prefazione dell'ebook è di Nicoletta Carbone. Lo dico perché non è mai stato detto, mi sembra, no, giusto. No, mi sembra, non ero vantata. Sì, ma timidamente, esatto. Perché timidamente no, l'avevi detto. Cuore e Denari sono necessari. La medicina è questione di cuore. Dove trovate anche Deborah, perché io ormai la tiro sempre nel cuore. Deborah nel cuore di tutti. Io sono rapita da voi due stamattina, allora, come lo sono stata prima del dottor Luvini. Sì, grande fascino, vero? Cioè, sono degli uomini che... Il carisma. Sì. Però perché tu esiste. Non conosci Lucilla Titta. Fammela presentamela, già. Questa nuova amica. Buongiorno a Lucilla Titta. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Volevo farle conoscere Deborah, che è la mia amica compagna di Cuore Denari, ma soprattutto, se ce ne fosse bisogno, perché le amiche di Cuore Denari la conoscono bene, così metterla in contatto con le nostre ascoltatrici e anche i nostri ascoltatori. E iniziamo subito. C'è uno stile alimentare protettivo e preventivo, dottoressa Titta? Sì, ormai la scienza ha preso una posizione sulla proprio capacità di prevenzione dello stile di vita, quindi ormai alimentazione e stile di vita sono, certo, universalmente riconosciuti come strumento di prevenzione delle malattie, in particolare delle malattie croniche che più colpiscono, ed ancora più in maniera specifica dei tipi di tumore, quindi anche rispetto al tumore al seno. Sappiamo che uno stile che si avvicina alla dieta mediterranea, per esempio, ha un ruolo protettivo anche nel tumore al seno, anche nell'insorgenza del tumore al seno. Infatti è stato fatto uno studio, che riporto anche nell'ebook, se non lo sai, che ha, diciamo, dato un punteggio, uno score allo stile alimentare di molte donne, di migliaia di donne, un punteggio di mediterraneità, no? Di quanto, sì, il loro stile alimentare aderiva ai principi della dieta mediterranea, e si è visto che le persone, quelle donne che avevano un punteggio più alto, avevano un rischio ridotto anche del 20% di insorgenza di questo tipo di tumore, quindi direi che conta. Assolutamente. Se non lo sai, potrebbe essere, no, anche il modo per dare il via ad una sorta di gioco, con cui vorrei concludere un po' questa nostra parte per dare delle indicazioni a chi ci sta ascoltando. Dottoressa Gatti, se non lo sai... Se non lo sai, chiedi. Se non lo sai, la meditazione aiuta ad affrontare anche la malattia. E di stamattina la notizia, l'abbiamo messo anche nell'ebook anticipando un po' la cosa, che la meditazione ha un effetto positivo sulla salute delle donne operate al seno. Passo la parola alla dottoressa Lucilla Titta, perché nell'ebook dà numerosi consigli sul tipo di alimentazione. Se non lo sai, ce n'è uno che a me piace in modo particolare. Lo so, se non lo sai, 200 grammi di verdura, di ortaggio a foglia, quindi di verdura a foglia verde, sono protettivi rispetto all'insorgenza di tumore al seno, e inoltre aiutano anche il senso di sazietà e contribuiscono a controllare il peso. Per tutti, se non lo sai, 800 24 00 24, se non lo sai, anche una sigaretta al giorno, sì, può esporci ad un rischio. Noi donne, sì, ultimamente siamo molto attenti alla forma fisica, all'alimentazione, mangiamo i semini, facciamo e poi diciamo una cosa sarà mai, e invece anche una, questo lo voglio ricordare. Abbiamo, dove andiamo? A Parma? Andiamo da Nadia, perché si era candidata da un pochino. Nadia, benvenuta. E poi passiamo a Francesca. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutte, complimenti sempre per la trasmissione. E appunto adesso ho sentito che giusto una sigaretta al giorno può essere molto... sì, può fare danni, può favorire. È poco, però è successo proprio a mia cognata, che aveva proprio quel ritmo lì di solo una sigaretta due al giorno, e purtroppo abbiamo vissuto un dramma. È finito molto male, quindi, però volevo aggiungere anche una cosa: noi abbiamo vissuto questa cosa molto male perché non sapevamo che comportamento avere, molto difficile anche dalla parte di chi è dei familiari stare malate. Vicino ai malati, sì, è vero, è difficile se ci fosse, non so, una linea guida che non è mai, voglio dire, veritiera, però aiuta sicuramente in generale chi è vicino a queste persone, perché è molto difficile avere un comportamento normale, troppo protettivo, magari si sbaglia, insomma è molto difficile viverla anche dalla parte di chi è vicino a un familiare o un amico che ha questo problema. Certo, Nadia ha sollevato un tema molto importante, dottoressa Luini. È veramente fondamentale, non c'è una linea guida, però una cosa di buon senso che funziona è chiedere a chi sta male di cosa hai bisogno. A volte, a volte noi presumiamo di sapere, cioè ci diciamo quella persona ha bisogno di, in realtà è ciò che noi crediamo sia necessario, quindi cercare di capire davvero che cosa vuole la persona malata. Ascoltarla, quindi. Ascoltare, osservare, sì, essere aperti. Andiamo a Francesca dalla provincia di Milano. Francesca, benvenuta. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sì. Francesca. Buongiorno, la trasmissione è interessantissima. Volevo solo chiedere un'informazione su cui ho le idee abbastanza confuse. Il linfonodo sentinella, io lo sento sempre nominare, ma non ho bene le idee chiare, se potete... Sì. Okay, grazie Francesca. Il linfonodo sentinella è il primo linfonodo che riceve la linfa nella zona dell'ascella, da quella parte del seno dove c'è il tumore. In pratica il tumore si forma in un certo punto del seno, da lì partono i vasi linfatici e questi vasi linfatici vanno verso l'ascella e incontrano sul loro cammino un po' di linfonodi. Il primo è il linfonodo sentinella. Come facciamo a saperlo? Con il tracente radioattivo di cui parlava prima il professor Luini, legato a una particella un po' particolare. Riusciamo ad arrivare lì e a sapere durante l'intervento che è proprio quel primo linfonodo. Salutiamo la dottoressa Luini, che vogliamo ringraziare, ricordiamo, se non lo sai, grazie, Emma Book, e vogliamo salutare anche Lucilla Titta, che ormai a tutti gli effetti è diventata amica di Cuore Denari. Grazie. A cui vogliamo non si va mai via senza un altro piccolo consiglio. Facile e molto efficace. Allora, ne do due piccolissimi. Uno, perché ci tengo sempre a dirlo, non è molto comunicato, l'alcol è un fattore di rischio per l'insorgenza di tumore al seno e quindi non bisognerebbe superare le quantità di un bicchiere di vino al giorno per le donne. Questo ci tengo perché è veramente poco detto. Invece uno un pochino più... confortante, che l'attività fisica è protettiva, quindi consigliamo veramente a tutte le donne di praticare attività fisica, anche solo avere una vita attiva senza bisogno di fare agonismo, insomma, tutti i giorni in palestra, anche solo andare a ballare, fare giardinaggio, fare le scale, scendere una fermata prima con l'autobus, cose semplici. E anche durante, diciamo, le terapie o la malattia si è visto che un'attività fisica ovviamente seguita da un fisioterapista, da un professionista, è molto molto diciamo aiuta moltissimo ad avere meno effetti collaterali e a stare meglio. Grazie dottoressa Titta per essere stata con noi. A Deborah, proposito di ultime informazioni concrete, Carla ci scrive una mail e vuole sapere come si può procedere all'acquisto del libro, che non ha una versione cartacea, però si può comprare appunto un ebook, per cui Amazon, il Kindle, poi Carla magari le scriviamo e daremo tutta la strada corretta e metteremo magari anche le istruzioni su Facebook. E voi continuate a scriverci le vostre domande, dottoressa Luini, lei ci aiuterà a rispondere. Sì, risponderà personalmente Alberto Luini sulla vostra pagina Cuore Denari, se vi fa piacere. Molto piacere, grazie. Non so se è poco. Allora, grazie dottoressa Luini, grazie Lucilla mille. Titta, buon Natale, un abbraccio, se grazie non ci a voi. Prima. Arrivederci. Buon Natale. Buon Natale, arrivederci. Cuore e Denari. Siamo travestiti.